Sirella, vieni allo mare, nella barchetta v'è un letto di fior. La bianca brava somiglia a una lanara, l'ore delle stelle sfavilla. Morir